Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Le 6:26, ci sono notti in cui non sai dormire. E non avrete modo di addormentarvi, che siano le 6:26 o qualsiasi altra ora. In realtà noi galleggiamo in questa musica, in questa voce, perché l'ospite che qui accanto a me ha raccontato questa piccola sceneggiatura in musica ed è uscito con la sua ultima fatica. Ma intanto io vorrei chiederti, mentre siamo sulle note di una tua bellissima canzone dell'ultimo album, ti racconti come chiunque faccia musica e soprattutto chi la fa in un certo modo attraverso le tue canzoni, ma se dovessi dire tre aggettivi su di te? Io penso di essere alto e giusto, piuttosto romantico nelle canzoni e definitivamente bolognese. Quindi è deciso, sei bolognese. L'ho capito. Non c'è verso di collocarti altrove. E così, sul bolognese posso anche dire che anche il mio migliore amico bassista è la stessa cosa. Che è bassista, ma abbastanza alto anche lui. All'aggettivo bolognese, bene. Bolognese. Che vedi che campanilismo, ma nel senso positivo, no? Spesso gli italiani sono magari un po' poco, vorrebbero essere venire da altri paesi dell'Europa o da New York. Invece Bologna, Cesare Cremonini è chiaramente, definitivamente, come ha detto lui, bolognese. Devo giustificare questo accento. È un campanilismo culinario più che altro, diciamo. Però vi vedo in forma, non vedo, diciamo. Beh, oggi con la febbre sei proprio carina, allora, a dirmelo. Sì, un po' pallido Cesare, ma sempre affascinante. A molte donne piacciono i ragazzi un po' introspettivi, un po' sofferti, no, con le occhiaie. Me ne presenti un paio? Sì, ballo, te ne presenti quante ne vuoi. E questo non è lo sdoppiamento, quella voce che sentite insieme a me, a Cesare Cremonini, è, posso dire senza offesa, la copertina di Linus di Cesare? Secondo me è esagerato, nel senso che poi dopo in bagno ci vado da solo, però... Siamo sicuri? Non lo so, non ho avuto le prove. No, siamo sicurissimi. Siamo praticamente sicuri di questo, però Ballo è il mio fumetto preferito. Oddio, ti ho offeso, no? Dai. Io ho sentito molto di più da parte tua. Tu hai detto Ballo, cioè Nicola Balestri, che è il tuo bassista, che viene dai Luna Pop insieme a te, hai portato con te, è un dono del Signore. A me è sembrata questa tutti gli empatica. Esseri umani sono un dono del Signore. Sì, è vero, Ballo. Diciamo che a me, personalmente, il Signore mi ha fatto più di un dono, uno di questi sei tu. E va bene, con questo la sviolinata. E l'altro non lo diciamo, la tua voce, il tuo talento, la tua prestanza, tante cose. Secondo me la vita è fatta di incontri e le possibilità che ci sono in questa esistenza nascono dagli incontri. Nella solitudine si può creare ben poco, tant'è vero che non ho mai avuto il piacere di portare con me un diario nella vita, perché l'ho sempre trovato un gesto troppo egoista, quello di parlare a se stessi. E piuttosto quindi parli agli altri con la tua musica. E quindi ho scelto di fare il cantante e il musicista anche perché mi piace più raccontarmi che raccontare a me stesso le mie storie da solo agli altri, che mi piacerebbe di più. C'è un po' di pudore a chiamarsi adesso in giovani età, per esempio tu hai 28 anni, no? Sì. Cesare, sei nato a Bologna, proprio di Bologna nel 1980, a definirsi cantautori adesso, sembra quasi demodé per me è stato un punto di arrivo, perché sono cresciuto ascoltando grandi cantautori e continuo a scoprirne. L'ultimo cantautore in cui sono entrato nel mondo, insomma, di questo personaggio è Giorgio Gaber, che mi ha influenzato tanto, ma non tanto musicalmente, perché poi musicalmente provengo da altri ascolti, quanto proprio nella vita di tutti i giorni, nei pensieri, che è poi il dono e il valore che ha la musica, cioè saper creare spunti di vita, riflessioni inaspettate oppure poter dare consigli di fronte a un vicolo. Ecco, secondo me le canzoni offrono questo soprattutto, e Gaber in questo senso per me è stata una grande scoperta, perché ascoltare canzoni di Giorgio Gaber, che ha scritto negli anni 70, e risentirle oggi per uno che ha 28 anni, e quindi per uno che si trova di fronte, come me, come tutti quelli della mia generazione, a un mondo piuttosto incerto e faticoso da capire, ecco, avere le risposte nelle canzoni dà valore al mondo della musica, dà valore alla musica. E a volte si dice che le canzoni e la musica in un momento di crisi, e oggi siamo a Radio 24, quindi voi sapete bene e come no, sarebbe da aggiornare. Si dice crisi, di cosa si parla? Ecco, e si dice spesso che durante le crisi l'arte e la musica non hanno un grande significato, forse per i commercianti, ma per le persone invece no. Cioè, forse per chi vende dischi e in realtà quindi per il negoziante avrà problemi a vendere, ecco. Ma onestamente, per quanto mi riguarda, a parte che voglio dire 50.000 copie in più, 50.000 copie in meno non cambiano la mia esistenza e neanche quella della mia casa grafica probabilmente, però in generale le canzoni invece ne ho sempre più voglia di scrivere, ne ho sempre più voglia di ascoltarle. E infatti ne ha scritte ben 12 in questo Il primo bacio sulla luna, no? Che è il tuo ultimo album. Sì. Stavi dicendo qualcosa? No, stavo pensando 12 perché quando mi dicono allora hai scritto 12 canzoni, penso alle altre 20 che non ho fatto uscire. Ah, beh. No, perché quando facciamo un disco spesso per smania, per paura di arrivare in ritardo o con poco materiale, lavoro tantissimo e arrivo con tantissime canzoni. Poi mi convinco che il mio disco abbia la forza di tutte quelle canzoni. Quindi invece è già poi pronto ne scelgo il prossimo, probabilmente. Potrei averne un altro, però con calma ci possiamo ragionare. Storielle. Storiacce. Roberta Giordano sempre con voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e accanto a me Cesare Cremonini. Adesso ripigliamo un po' il gomitolo della sua storia. Accanto c'è anche un testimone del suo percorso, quantomeno artistico, ma anche umano, perché mi sembra che foste compagni di scuola, Nicola Balestri, detto Ballo. Esatto. Il suo dono del Signore, come dicevamo prima, un incontro fatale è stato nella vostra vita. Perché tu, Cesare, eri stato avviato in realtà, abbiamo detto che sei nato nel 1980 a Bologna, eri stato avviato dai tuoi genitori a suonare il pianoforte, quindi alla musica classica. Sì, per tradizione familiare i miei genitori vollero farmi conoscere Suor Vincenza, che fu la mia prima insegnante di pianoforte, i cui baffi ricordo con grande ancora con grande amore. Sta ascoltando e nostalgia. In questo momento non c'è più. Se è ancora al mondo, probabilmente certo ci sta ascoltando. Sicuramente ci è una mia grande fan. A tutti i miei dischi. E infatti vedo che i baffi te li sei fatti venire anche tu per nostalgia. Sì, anche questo. La barbetta. E Suor Vincenza, diciamo, mi insegnò le prime note di pianoforte e da lì iniziò un percorso di studi che mi portò per 10 anni a studiare pianoforte. Amavo la musica classica, o meglio, amavo il pianoforte, e quello che studiavo era la musica classica. Poi incontrai Beethoven, Mozart, Chopin. Chopin, eccetera, eccetera. Poi incontrai Queen. Galeotto fu un disco dei Queen che ti fu regalato da tuo padre. Da mio padre, per il compleanno, per il mio 11° compleanno. Quindi è colpa sua, lui senza volerlo ti ha... Non è da mio padre per regalare dischi, per cui è una cosa strana. Ma l'avevi chiesto, è stata di sua iniziativa? Di sua iniziativa, forse voleva sentirsi un papà moderno, non lo so. Voleva tentarti. Al negoziante, forse. Non lo so, io ti dico la verità, non avevo nemmeno mai espresso il mio amore verso i Queen a mio padre, semplicemente quando morì Freddie Mercury, in quel pessimo novembre, 24 novembre. Del 91, sì, eravamo insieme al TG1 della sera a mangiare come tutte le famiglie italiane. Davanti al TG. E fecero vedere Freddy e io lo guardai con aria incuriosita perché i miei amici a scuola ascoltavano i Queen e mio padre mi ricordo che disse tra una coscia di pollo e un'insalata certo che aveva una gran voce. Questa è l'unica cosa che io ho sentito parlare di musica di mio padre tutta la mia vita. Non ha mai parlato di musica se non in quell'istante. E poi però ha riconosciuto il talento, nonostante fosse di una generazione che magari poteva non apprezzare. Mio padre aveva sicuramente amato più Gino Paoli che i Queen. Ma Gino Paoli probabilmente... Quindi dicevamo, sulla tua strada di avviato, quasi avviato concertista di piano, insomma, tu hai fatto già piccoli concerti. Insomma. Sì, avevo fatto una decina di concerti di musica classica, avevo 14 anni, per cui comunque erano concerti di musica classica per ragazzi molto giovani. Portavo anche gli occhiali, quindi eri un po', diciamo, perché sono stato daltonico. È una cosa che non sa nessuno. Ma lo sai gli occhiali per la daltonia? Non lo sono più, non so perché. Ma si guarisce da io credo che sì, perché io avevo un problema all'elementare. Fondamentalmente la maestra disegnava delle palline rosse e blu e le faceva contare. Io le vedevo tutte blu e non vedevo le rosse e mi misero gli occhiali. Secondo questo me è quel che ricordo. I Queen ti hanno fatto guarire. Tu avevi fondato un primo gruppo, quindi a scuola. Sì, i Senza Filtro, dopodiché i Luna Pop. E scrissi tra i miei 15 e i 18 nel anni. Nel 97, no? Con Walter Mameli, altro incontro, sì, che è stato importantissimo importante nella tua vita. Sì, prima ci fu l'incontro con la Vespa, ecco, e poi di conseguenza special. L'incontro con Walter. Fu l'incontro che mi ha cambiato decisamente la vita, quello con Walter, perché gli portai il mio demo con le prime canzoni che avevo scritto, che erano Qualcosa di grande, Un giorno migliore, bellissime, Vorrei, beh, sì, e canzoni che hanno fatto parte di quel disco poi, e mi portai dietro un amico molto grosso per fare un po' paura anche, tra l'altro. Quasi minaccioso, sì, insomma. Manfred, che saluto, che non suonava con me, e Walter non perché eravamo più grossi di lui anche allora, ma forse perché si incuriosì un po' al linguaggio che proponevamo, e cioè un linguaggio molto semplice ma molto vero, e cioè parlavamo di colli bolognesi, di ragazze, di esperienze prime uscite della vostra età, esatto, del nostro mondo fondamentalmente, della nostra sensibilità di allora. Si lasciò incuriosire e mi disse: lavoriamo insieme un annetto. E io in quell'anno scrissi molte canzoni, e allora lui vide che mi impegnavo veramente tanto e iniziò a credere seriamente. Questo ragazzo promette bene, disse. Sì, poi fu fantastico il fatto che volle proporre questo progetto, i Luna Pop, quindi le mie prime canzoni, compresa di 50 spese, a tutte le case discografiche italiane, e tutte le case discografiche di major italiana dissero: no, in questo momento noi cerchiamo roba hip hop. E lui disse: ma come? Ah, cioè, sì, quindi vi rifiutarono? Sì, perché la moda voleva un'altra cosa in quell'istante. Saranno mangiati le mani. Poi, qualche sedia è anche crollata, credo. È un po' come quello che è caduto in borsa. Non hanno avuto ti vedevo neanche interessato, l'umiltà infatti di mangiarsi le no, mani. Mi incuriosisce molto il vostro sito, perché stanotte sono andato a vederlo e mi chiedevo, appunto, ti chiedevo anche prima del tuo programma, ti chiedevo cosa volesse dire quando vedi quelle foto in prima pagina con le persone con le mani con nei mani capelli. Capelli. Cioè, sono loro che perdono i soldi oppure loro sono disperati perché gli altri stanno perdendo i soldi? È un domino, è tutto collegato. Tu ti metti le mani nei capelli quando senti queste cose o sei abbastanza tranquillo? Io onestamente sono abbastanza tranquillo perché ho deciso tempo fa di non avere niente in borsa. Perché non... sotto il materasso mi hanno detto che tu tieni. No, diciamo che mi piace di più quello che la fortuna che ho avuto nella musica mi ha dato da avere in termini economici. Mi è piaciuto di più spenderli o in regali per me stesso, cioè spenderli, bruciarli, ecco, sì, diciamo. Cioè, preferisco bruciarli così che in borsa. Sperperare. Oppure mi sono comprato la casa, che è una cosa che vuol dire è diventata la mia tana anche creativa, per cui ne avrei avuto comunque molto bisogno, perché la solitudine e quindi la propria casa per scrivere è molto molto importante. Poi abbiamo detto, tu hai fatto il tuo percorso dopo i Luna Pop, hanno proprio sfondato nel mondo della musica, è stato questo fenomeno generazionale tra fine secolo e inizio secolo, no? Pensa che quando io avevo 11 anni, cioè quando mio padre mi regalò il mio primo disco dei Queen, di notte non riuscivo a dormire perché avevo paura di quando avrei avuto nel 2000 20 anni per i militari. Non dormivo, piangevo di notte, dicevo: io non voglio fare il militare, non voglio fare il militare, non voglio fare. E dicevo: il 2000, sarò ai militari, nel 2000, pensa, cambierà il secolo e io sarò ai militari. E cioè, pensa cosa ti è successo, incredibile. Poi è uscito Square Edge, appunto, l'album che ha avuto un grandissimo successo, e poi dopo, come succede nella vita, questa esperienza, insomma, è stata archiviata e tu hai iniziato il tuo percorso da solista. Sì, ma in realtà, per come l'ho vissuta io, è stata una continuazione. Per quanto riguarda la parte creativa, è chiaro che poi, come dire, per la gente è chiaro che c'era una differenza, l'uno proprio Cesare Camerini, ma per quanto mi riguarda ho iniziato a scrivere verso i miei 14 anni e da quel momento per me è iniziato un percorso. Avrei fatto la stessa cosa, le canzoni di questo disco sarebbero il quarto disco di Luna Pop e viceversa, ma lo dico con molta sincerità perché no, ma ci credo, cioè, ci posso credere. Poi c'è come continuità, appunto, dicevamo, c'è Con te ballo, quindi Bagus nel 2002, poi è seguito invece Maggese, sì, 3 anni dopo, no? Nel 2005, poi c'è stato un live e poi adesso finalmente il primo bacio sulla luna. Dicevo, tu hai nominato il termine di solitudine, ogni tanto torna un po' nei tuoi discorsi, solitudine da che punto di vista la tua, cioè cercata di spazio per sé o la fine solitudine dell'artista? Ma io credo che quando uno parla di solitudine parla del sentirsi solo e non sai come spiegarla anche questa cosa. E tu ti senti solo? Molto, ma questa è una sensazione probabilmente che non ha ragioni reali, ecco, spesso... E forse spesso... il vantaggio svantaggio di essere famoso, che da una parte ti può aprire molte porte, non so, anche nei rapporti o con le ragazze, cioè, e dall'altra magari pensi sempre, questo si interessa a me perché sono Cesare Cremonini, perché non lo sono... Non so, famoso. Io ho avuto sempre delle sensazioni legate al giorno, alla notte, al cambio delle stagioni, all'incontro con le persone, alle sensazioni sensoriali proprio che abbiamo nella vita, e la solitudine è una di quelle sensazioni legate alla notte, e quindi non me la sono mai fatta passare, non ho mai trovato la condizione mentale necessaria perché questo non avvenga, ecco. Semplicemente provo questo dolore. Così come posso raccontarti di immense gioie che provo. Non è una vita a senso unico la mia, nel senso, come credo quella di sia, tutti. Che sia meglio così, semplicemente, no? Nel ventaglio di emozioni che una persona prova c'è anche il dolore, tutto qua, non c'è niente di male. E questa solitudine un po' notturna che ti tiene sveglio, che ti fa vagare, per esempio nelle 6:26, no? Che sentivamo all'inizio. Sì, soprattutto non mi fa spegnere. La solitudine di cui parlo nelle canzoni, anche adesso con te, non è una solitudine piagnona. È una solitudine che non vuole abbandonare la vita, ecco, che non vuole abbandonare il vissuto. E è per questo che mi porto dietro molte esperienze notturne e spesso cadono nelle mie canzoni. Perché spegnermi è qualcosa che non mi diverte per niente. Ma è anche addormentarsi, spegnersi, questo intendi? Anche per me funziona un po' così. Cioè, nel senso, sono molto legato a quello che mi sta succedendo. Non riesco a decidere così, sono arrivate le 2, beh, è ora devo di andare dormire. Non è per me. Sì, il primo bacio sulla luna, che insomma, forse dobbiamo ricominciare la vita di un essere umano un po' sbagliata, che è andata in questi secoli un po' per certi versi, direi drammaticamente, tragicamente, in modo sbagliato. Anche per quanto riguarda l'amore, dopo migliaia di anni di evoluzione ancora non abbiamo imparato ad amare. Forse bisognerebbe ricominciare dalla luna. Ma secondo me sì, sono proprio d'accordo con te. Secondo me dopo tante evoluzioni ancora non si può generalizzare. Parlo per me e parlo per chi è come me. Non abbiamo ancora imparato ad amare per bene, probabilmente. Ma credo che al giorno d'oggi sia anche difficile permettersi il lusso di amare facilmente, perché si chiede tanto agli esseri umani in termini, come dire, di velocità. Cioè tutto è molto veloce, sì. Tutto, e quindi tutto precario anche. E quindi diciamo che la profondità dell'esperienza, quindi l'esperienza di un matrimonio, l'esperienza dell'amore vissuta a 360 gradi, fa molta, molta più paura. A te fa paura? Fa paura al di là del matrimonio, ma il trovare una persona e dedicarti a questa persona, naturalmente ricevere anche le sue attenzioni. Che per quanto riguarda dedicarsi a una persona, penso che la mia non sia una paura, ma non essere ancora capace di capire se sono pronto o no a questo. Non mi sono ancora messo alla prova così tanto. Dal punto di vista invece in generale dell'amore vissuto, credo che faccia paura al fallimento, cioè si ha paura di incontrare qualcosa e poi vederselo sgretolare fra le mani e sentirsi falliti. La verità è che nella vita ho capito una cosa per ora soltanto, l'ho capita grazie al mio lavoro, che le cose le si riesce a realizzare soltanto facendole, cioè rimanere a pensarle, a ragionarci sopra è un gran tempo perso. Così è le canzoni, a volte si passano ore e ore e ore a parlare di canzoni, di cose che vuoi fare, ma la verità è che quello che serve è il sacrificio di mettersi lì e provarci. Quindi vivere, insomma, buttarsi nelle cose. Ballo, avete in ballo, scusa, il tour, no? Sì. Abbiamo in ballo il tour. A proposito di cose da fare. Ecco. Che comincia tra poco, a proposito di cose sulle quali ci dovremo buttare dentro. Esatto. Cominceremo il 2 dicembre qui a Milano. Dall'Alcatraz. E in questo tour proporremo sia canzoni del repertorio passato, delle canzoni più conosciute, e anche una buona parte di quelle nuove. E sarà un tour elettrico, la cui particolarità, la cosa più, secondo me, interessante al giorno d'oggi di cui parlare per questo tour, è il fatto che abbiamo scoperto io e Ballo, dopo studi approfonditi ore e ore sulla scrivania, che se tu rinunci a un mega schermo il prezzo del biglietto si abbassa notevolmente per il pubblico. Quindi voi rinuncerete al maxi schermo. Abbiamo pensato che non avevo mai capito perché un concerto dovesse per forza costare così tanto. Abbiamo capito che è tutta colpa dei mega schermi. Ho fatto tanti calcoli economico-finanziari. Allora abbiamo scoperto che tagliando il maxi schermo puoi abbassare il costo del concerto di ben 15 euro, e quindi il concerto diventa assolutamente interessante e palpabile per chiunque. Ecco, mi consenta, come direbbe qualcuno. Senti, io so che tu hai scritto in un libro, in una raccolta di Fazio Editore, delle riflessioni sui politici. Qual è l'argomento di attualità che ti prende di più, sul quale avresti delle cose da dire? Posso dirti che di tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni, l'avvenimento dell'attualità, della vita sociale, civica e politica italiana che mi ha colpito di più è stata la morte di Borsellino e di Falcone. E ancora oggi, nonostante fossi stato molto piccolo in quel periodo, mi rendo conto della completa inconsistenza di quello che è stato fatto per dare la sensazione ai cittadini di non vivere in quell'inferno che abbiamo visto nelle immagini che vennero trasmesse in diretta dei funerali di queste due persone straordinarie. E ancora oggi, quando vedo la richiesta di pietà da parte dei familiari di queste vittime, nel cercare i colpevoli, nel distruggere questo grande dolore che prova il nostro paese a doversi confrontare con questo tipo di avvenimenti. Cancro, diciamo anche. Ecco, il fatto che questa cosa non sia avvenuta è una cosa che ancora mi fa molto male. Quando penso ad altre cose più leggere sto benissimo comunque. da gulereccio bolognese, come dicevamo. Questa che vedi non è per offrirti del caffè Cesare Cremonini, ma è perché dentro ti voglio dire che c'è il genietto che aspetta un tuo desiderio. A questo punto, dopo quello che ci hai raccontato fin qui, dopo il tuo ultimo album, Il primo bacio sulla luna, che cosa chiederesti? Ma considerato che non so chiedere cose piccoline, non mi accontento mai. Piccola, media, grande. Quando vedo le stelle cadenti cadere chiedo sempre cose incredibili e mi dicono sempre che forse esagero, però siccome ho un genietto a disposizione voglio chiedergli questo. Siccome penso che ci siano tantissime occasioni nella vita per potersela rovinare. Su questo siamo d'accordo. Ecco, io vorrei chiedere a questo genietto se mi fa vivere una vita il più divertente possibile, con più sorrisi possibile. Basta, non ho altro da chiedere. Beh, mi sembra bellissimo. Ti lo auguro, mettercela tutta. Grazie Cesare Cremonini. A voi, ciao. Ciao Cesare. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto e partire.